Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Tre barconi carichi di clandestini sono colati a picco fra la Libia e la Sicilia. 350 persone soccorse da un rimorchiatore italiano, ma i dispersi sarebbero 300. Scaduto l'ultimatum per i tre ostaggi dei terroristi islamici nelle Filippine, fra loro l'italiano Eugenio Vagni. Produzione industriale in calo del 20% a marzo, dice Confindustria. Leggera crescita delle vendite al dettaglio a gennaio. Intanto l'inflazione a marzo scende a livelli che non si vedevano da 40 anni, 1,2% su base annua. A Grenoble, in Francia, gli operai sequestrano 4 dirigenti di Caterpillar che avevano annunciato licenziamenti. In Afghanistan approvata una legge che legittima lo stupro delle mogli. Per le donne vietato uscire di casa e lavorare. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large che apriamo parlando di immigrazione. Sì, parliamo di quanto accaduto nel mare fra la Libia e l'Italia, perché tre barconi carichi di clandestini che cercavano appunto di arrivare nel nostro paese sono affondati. Ci aggiorna dalla redazione Maria Luisa Pezzali. Buongiorno, le notizie sono ancora molto confuse e frammentarie, arrivano da fonti libiche, pochi riscontri italiani perché i naufragi, si tratta di più barche, sono avvenuti a pochi chilometri dalla costa libica, una trentina circa, acque, bisogna dirlo, di competenza esclusiva delle autorità libiche. Secondo quanto si è appreso finora, i barconi affondati sarebbero tre, i dispersi circa 300. Come anticipavate da studio, la cifra è stata fornita dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che cita fonti diplomatiche a Tripoli. Il Ministero dell'Interno libico per ora parla solo di 21 vittime accertate, 21 corpi recuperati e 23 persone tratte invece in salvo dai soccorritori. I barconi carichi di migranti diretti in Italia, per lo più egiziani, sarebbero colati a picco ieri, secondo alcune fonti, sabato secondo altre, a causa del forte vento e del mare in tempesta. Una quarta imbarcazione in difficoltà invece è stata rimorchiata fino alla terraferma. Si tratta del barcone soccorso sabato notte da un mercantile italiano, di cui ci ha dato conferma la Guardia Costiera. Sentiamo cosa ci ha detto il capitano Cosimo Nicastro. Ha ricevuto via radio una comunicazione da una piattaforma petrolifera lì presente. Gli ha comunicato delle coordinate di un'imbarcazione in legno con circa 350 persone a bordo in evidente stato di difficoltà. Il rimorchiatore ha raggiunto la posizione, ma prima di raggiungerla gli si è affiancato un'unità della Guardia Costiera libica. Eravamo nell'area di giurisdizione libica, quindi il coordinamento era delle autorità libiche per quanto riguardava appunto questa attività di ricerca e soccorso. Una volta agganciato il barcone è stato rimorchiato nel porto di Tripoli, dove è giunto intorno alle ore 15 della domenica. Ecco, questa è la notizia che al momento le posso confermare. Salve dunque queste 350 persone, sui 300 dispersi al momento non ci sono aggiornamenti dalle operazioni di soccorso, il numero purtroppo potrebbe essere destinato a salire, bisogna ricordare che in un primo momento fonti libiche avevano addirittura parlato di 500 clandestini dispersi. I contorni della tragedia restano comunque pesantissimi, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha espresso shock e profonda tristezza. Per ora è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Maria Luisa Pezzali per questi aggiornamenti. Ci spostiamo nelle Filippine perché questa mattina alle 8 ora italiana è scaduto l'ultimatum dei ribelli islamici che hanno in ostaggio tre operatori della Croce Rossa, fra cui un italiano. Cristina Carpinelli. Sì, è scaduto come dicevate l'ultimatum, ma sembra che nelle Filippine, nell'isola di Jolo, si sia aperta la possibilità di uno spiraglio per salvare la vita ai tre operatori della Croce Rossa, tra cui un italiano, Eugenio Vagni, e si riapre forse un labile spiraglio nei negoziati con i rapitori, tra cui appunto l'italiano, perché tre deputati locali sono intervenuti nelle negoziazioni per il loro rilascio. Hanno iniziato a rincorrersi le notizie su uno slittamento della minaccia di decapitare uno degli ostaggi se le truppe non si fossero ritirate dalla zona. Secondo alcuni quotidiani l'ultimatum sarebbe quindi slittato di un'ora, secondo altri tre. Da allora comunque tutto tace. Intanto è in vigore lo stato d'emergenza nel sud delle Filippine. Si teme comunque per la vita dei tre operatori che, lo ricordiamo, sono stati rapiti il 15 gennaio scorso. Sono Eugenio Vagni di 62 anni, la filippina Jean-Marie Lacaba di 37 e lo svizzero Andreas Notter di 39 anni. Stanno bene, ma sono provati, ci ha detto poco fa il commissario straordinario della Croce Rossa italiana Francesco Rocca. Sentiamo. Le notizie che abbiamo sicuramente erano in discrete condizioni fisiche, ma anche molto molto sotto stress, perché la zona è stata interessata da combattimenti, la zona dove sappiamo che possono essere prigionieri ristretti in queste ore. La richiesta che ha fatto la Croce Rossa è quella ovviamente di utilizzare il dialogo e la moderazione, ed è stata rivolta anche al governo filippino, è quella di riportare al centro l'attività degli operatori umanitari, che devono essere liberi di operare senza il rischio di essere colpiti e fatti bersaglio dalle parti in conflitto. Per ora è tutto, se vi fossero novità ovviamente chiederò la linea, ma adesso vi ridò la linea. Grazie Cristina Carpinelli per questi aggiornamenti. Noi adesso parliamo di economia, ci sono alcuni dati importanti a partire, Alessandra, dalla produzione industriale. Sì, dalla produzione industriale sono i dati diffusi questa mattina dal centro studi di Confindustria. A marzo è diminuita del 20,1%, insomma sostanzialmente del 20% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il calo invece è stato del 2,7% in un mese. Per quanto riguarda gli ordinativi, sempre secondo Confindustria, sono diminuiti del 12,1% su base annua. Ma oggi sono stati anche diffusi dall'Istat dati per diversi aspetti positivi. Il primo riguarda le vendite al dettaglio, cresciute dello 0,3% in gennaio rispetto a dicembre del 2008. Rispetto ad un anno prima, l'aumento delle vendite è stato dello 0,7%. Da segnalare qua che questo aumento delle vendite si è concentrato nella grande distribuzione, che ha fatto segnare un più 3,4%, mentre i piccoli negozi hanno segnato un meno 1%. E ci sono anche dati che riguardano l'inflazione, in questo caso sono le stime preliminari dell'Istat. A marzo l'inflazione è scesa all'1,2% dall'1,6% di febbraio, è il dato più basso dal 69. Se raffrontati nel corso di un mese, i prezzi sono aumentati dello 0,1%. Guardando nel dettaglio poi si scopre che sono crollati i prezzi dei biglietti aerei, quasi il 12% in meno rispetto al mese scorso e un calo del 22,8% rispetto a marzo dell'anno scorso. Di questi dati, degli ultimi due in particolare, ossia vendite al dettaglio e inflazione, parliamo con Mariano Bella, direttore del centro studi della Confcommercio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, inizierei proprio dalle vendite al dettaglio. Sembrano dare qualche spiraglio, non dico di ripresa economica, ma certo di miglioramento. Beh, si confermano la nostra impressione che tutto sommato dicembre e gennaio non sono andati poi così male, però devo dire che questi numeri, queste indicazioni non possono aprire la stura a facili ottimismi, perché sono dati in valore, cioè comprensivi della pur modesta inflazione. Se togliamo l'inflazione a questo 0,7% abbiamo un ulteriore dato negativo e quindi diciamo siamo soltanto moderatamente confortati, dati anche i risultati dell'indice di produzione industriale. Ci aspettiamo comunque che febbraio sarà ancora molto molto difficile. Ecco, visto che il dato delle vendite al dettaglio si riferisce a gennaio, in qualche modo possono anche aver influenzato i saldi, almeno per quanto riguarda abbigliamento, insomma, e altri generi? Sì, certamente sì, infatti si vede abbastanza bene questo dato da noi previsto. L'abbigliamento, la cura persona, quindi la profumeria, anche alcuni servizi sono andati tutto sommato bene, un po' peggio gli alimentari, però bisogna considerare che le vendite al dettaglio dell'Istat non considerano i mercati e gli ambulanti, che probabilmente anche per una questione di prezzo sono andati un po' meglio rispetto alla media. Abbiamo visto il dato dell'inflazione che è ai minimi da 40 anni. Di ieri la notizia che la Spagna è il primo paese europeo ad entrare in deflazione. Secondo lei corre questo rischio anche l'Italia? Direi di sì. Però ci sono anche degli aspetti positivi, per esempio tutta l'area del reddito fisso potrebbe trarre giovamento. Noi ci aspettiamo un dato ancora migliore in termini di inflazione, cioè più basso, per aprile, quando entreranno in vigore ulteriori riduzioni delle tariffe elettriche e del gas. E quindi se il petrolio dovesse mantenersi agli attuali livelli potremmo avere un consistente risparmio per le famiglie italiane. Ultima domanda, ci ha detto che vi aspettate un febbraio ancora molto difficile sul fronte delle vendite al dettaglio, ci può anticipare qualche dato? Beh, anticipare anticipare è difficile perché siamo in fase di elaborazione, certamente la piccola distribuzione andrà ancora male dai dati frammentari che abbiamo, queste sono le indicazioni, forse soltanto da marzo e aprile, anche con il sensibile miglioramento nell'area della mobilità, in particolare dell'auto, potremmo attenderci qualche dato migliore. Comunque la situazione è difficile e resta tale purtroppo. Grazie a Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi della Confcommercio. E a proposito di prezzi, continuiamo a parlare di prezzi, almeno quelli dei biglietti dei treni. Sì, perché ci saranno anche posti low cost sui treni, come già accade per gli aerei. Trenitalia ha presentato questa mattina le nuove offerte. Chiara Di Michele, quali sono? Buongiorno, da domani viaggiare con l'alta velocità sarà più vantaggioso. Trenitalia propone sconti dal 15 al 60%, naturalmente prima si acquista più si risparmia. Tre le tipologie di offerta, la premium, valida sia per la prima che per la seconda classe, prevede uno sconto del 15% sul prezzo stand per chi acquista un biglietto fino a 7 giorni prima della partenza. La special offre uno sconto del 30% solo sui biglietti di seconda classe acquistati fino a 15 giorni prima della partenza, con la super la riduzione del 60% per chi compra il biglietto almeno un mese prima. Anche questa offerta è valida solo per la seconda classe. Con questi sconti da domani si potrà quindi viaggiare tra Roma e Milano a partire da 33 euro e fra Milano e Napoli a 35 euro. Gli sconti coinvolgono tutta l'Italia dal nord al sud, città d'arte e città balneari. Non sono offerte civetta, ha detto l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Moretti, perché ogni mese ci saranno 250.000 posti in offerta, di cui 100.000 tra il 30 e il 60% di sconto, e di questi 75.000 saranno destinati alla Milano-Napoli. Grazie allora alla nostra Chiara Di Michele, collegata con noi da Roma. GR Extra Large, le 13:15:47. Nella prima parte abbiamo parlato dei tre barconi carichi di clandestini che sono colati a picco fra la Libia e la Sicilia. 350 persone sono state salvate, sono 300 i dispersi. Abbiamo parlato dell'ultimatum per i tre ostaggi dei terroristi islamici nelle Filippine, tra cui un italiano, ultimatum che è scaduto. Abbiamo parlato di dati economici con la produzione industriale in calo del 20% secondo Confindustria e l'inflazione che scende a livelli che non si vedevano da 40 anni. Ora parliamo di persone che a volte ritornano. Mario Chiesa, un nome diventato simbolo dello scandalo Tangentopoli, perché il suo arresto nel 92, quando era presidente del Pio Albergo Trivulzio, diede il via all'inchiesta di Mani Pulite. Oggi Chiesa è finito nuovamente in manette. Su ordine della procura di Busto Arsizio ci racconta tutto Giovanni Capuano. Giovanni. Ebbene sì, Mario Chiesa è stato prelevato questa mattina all'alba dalla sua abitazione di Milano dai carabinieri del NOE e poi trasferito a San Vittore. Scena simile a quella del febbraio del 92, allora Chiesa, esponente socialista, era presidente del Pio Albergo Trivulzio e fu incastrato da una mazzetta da 7 milioni di lire. Oggi invece è finito in carcere con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla gestione traffico illecito di rifiuti e truffa aggravata. Attraverso una società di cui era amministratore unico procacciava appalti per lo smistamento di rifiuti speciali e poi lucrava falsificando la documentazione di accompagnamento dei carichi, aveva creato una rete di complicità elargendo benefit come buoni benzina, buoni pasto e capi di abbigliamento per diverse migliaia di euro. Gli investigatori hanno confessato di essersi stupiti quando hanno capito nelle intercettazioni telefoniche di essere di fronte a un personaggio come Mario Chiesa. Il suo ruolo all'interno di questa organizzazione, nelle parole del sostituto procuratore di Busto Arsizio, Luca Gaglio, che parla anche dei suoi rapporti ancora esistenti con livelli politici. Il ruolo di Mario Chiesa è quello di sfruttare le proprie conoscenze, sia imprenditoriali che politiche, per ottenere appalti e per ottenere appalti che lo stesso Chiesa definisce buoni da prendere soltanto in caso di successivo gonfiamento dei pesi o falsificazione delle qualità, cioè non si tratta di appalti remunerativi in caso di gestione illecita dei rifiuti. Diciamo che era assolutamente disinvolto nell'interloquire con i dirigenti e amministratori pubblici, non è una persona che ha timore referenziale. Si dice il lupo perde il pelo ma non il vizio, quindi forse non c'è molto di che stupirsi alla fine. Ecco, In due occasioni Chiesa addirittura era stato in grado di far annullare gare d'appalto pubbliche in cui era risultato sconfitto. Al momento non risultano rapporti o coperture politiche che siano perseguibili dal punto di vista penale. In tutto l'operazione ha portato in carcere 10 persone. Giro d'affari illecito stimato negli ultimi 4 anni 2 milioni di euro. Domani il primo interrogatorio in carcere per Mario Chiesa. È tutto, linea allo studio. Grazie Giovanni Capuano. E come dicevamo, Mario Chiesa è stato il protagonista di una stagione politico-giudiziaria dell'Italia. E allora ripercorriamo nella storia. Ingegnere, per chi erano soldi? Non fa operazioni. 17 anni dopo Mario Chiesa torna a San Vittore. Qualche ruga sul viso e dei capelli bianchi in più, ma l'accusa è ancora la stessa, Tangenti. Allora era il presidente del Pio Albergo Trivulzio. Oggi, secondo i PM, sarebbe il regista delle operazioni della società ecologica amministrata dalla moglie. Allora, all'apice del potere politico c'era Bettino Craxi e Milano era quella da bere sulla terrazza Martini. Oggi in Italia, dopo le macerie della Prima Repubblica e la demonizzazione di quegli anni, Tangentopoli è storia e Milano, come il resto del paese, è appannata dalle nebbie della crisi. Era il 17 febbraio 1992 quando l'ingegnere socialista venne arrestato in flagranza dopo aver ricevuto 7 milioni da un'impresa di pulizia. A portarglieli Luca Magni, che così commenta dai microfoni di 24 Mattino il nuovo arresto. Ho pensato, nonostante sia sicuramente garantista, che probabilmente ha messo a frutto la sua esperienza negli anni. Secondo me la corruzione non è tanto nei sistemi, nei partiti, ma è nell'uomo. Quel giorno Magni aveva un microfono nascosto e fuori ad aspettare c'era un giovane sostituto procuratore, Antonio Di Pietro, poi è entrato in Parlamento come un altro membro del pool, mentre un terzo ha lasciato la toga. 17 anni fa quella bustarella fece crollare un mondo politico a colpi di avvisi di garanzie, carcerazioni e scandali, e a svelare per primo il sistema del finanziamento occulto ai partiti fu proprio Mario Chiesa, poi condannato a 5 anni e 4 mesi con i riti alternativi dopo aver restituito 6 miliardi. Un mariuolo isolato, lo additò Bettino Craxi. Ma ben presto l'onda lunga delle tangenti travolse anche lui e il suo partito sotto le monetine lanciate davanti al Rafael. Non credo che ci sia nessuno in quest'aula che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Crollava così la Prima Repubblica e per anni Chiesa è rimasto nell'ombra rifiutando ogni intervista. Ora torna la ribalta della cronaca. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. E torniamo all'economia, in questo caso non con dati reali ma con previsioni, perché le anticipazioni erano state date 2 giorni fa al Social Forum in corso a Roma. Oggi è stato reso noto ufficialmente l'outlook dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. E allora, secondo l'OCSE nel 2009 il calo del PIL nei paesi dell'area sarà in media del 4,3%. Noi ci colleghiamo con il Social Forum di Roma, dove c'è Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, sarà la conferenza stampa congiunta nel pomeriggio del Presidente del Consiglio Berlusconi e del Ministro del Welfare Sacconi a chiudere ufficialmente il Social Summit, che ha visto per 3 giorni qui a Roma i ministri del lavoro del G8 allargato ai paesi economicamente emergenti. Sul tavolo l'impatto sociale della crisi internazionale, i suoi riflessi sull'occupazione, sui risparmi, sui disagi di fatto di milioni di famiglie, proprio la stabilità sociale, dice il documento finale dei lavori del Summit, deve essere considerata elemento portante della stabilità economica, ed è questo il messaggio che viene mandato in vista della riunione del G20 di Londra, sotto accusa anche la poca capacità di prevedere la crisi da parte dei maggiori organismi internazionali, Fondo Monetario ed OCSE tra tutti. Quest'ultimo intanto però proprio oggi pubblica l'outlook di marzo, stime su crescita ed occupazione in primo piano, PIL mondiale nel 2009 -2,7%, quello dei paesi dell'area OCSE segnerà quest'anno un -4,3%, stesso trend per il prodotto interno dell'Italia. La struttura dell'economia italiana e la sua specializzazione nell'export di beni di lusso, si legge nell'outlook, la espongono alla piena forza della recessione in altri paesi. Per l'Italia infine il tasso di disoccupazione nel 2009 passerà dal 6,8 al 9,2 per arrivare al 10,7% il prossimo anno. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, che ci hai tra l'altro ricordato che naturalmente si chiama Social Summit e non Social Forum, che normalmente sono le riunioni dei No Global, quindi tutt'altra cosa. È stato assolutamente un errore da parte nostra. Noi ora ci spostiamo a Bari, perché alla Biblioteca Nazionale è nato l'archivio sonoro Moro della Puglia. Conserva documenti appunto sonori che testimoniano il grande patrimonio musicale della regione. È una raccolta davvero unica quella custodita nell'archivio sonoro della Puglia. Suoni che raccontano la memoria musicale di un tempo remoto. Circa 1500 registrazioni fatte a partire dagli anni 50. Un patrimonio ora accessibile a tutti e non più soltanto a studiosi appassionati, prima costretti a faticose trasferte anche fuori dall'Italia. Alla Biblioteca Nazionale di Bari sono infatti da ieri disponibili una serie di rari documenti sonori provenienti da varie raccolte, dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma anche dall'imponente archivio del musicologo Roberto Leidi, prima depositato in Svizzera, così come da importanti fondi privati che avrebbero potuto disperdersi irreparabilmente. Documenti che rappresentano la varietà d'espressione musicale della tradizione pugliese, di cui la pizzica è di certo la più nota. Vincenzo Santoro, coordinatore del progetto dell'Archivio Sonoro della Puglia. Oltre alla pizzica, sicuramente l'altro grande patrimonio è quello della cosiddetta tarantella del Gargano. Questi repertori suonati sulla chitarra battente di improvvisazioni poetiche che facevano i contadini della zona dell'altra estremità della Puglia, quindi sono le due estremità, quelle che hanno prodotto le cose più significative, che hanno almeno di più suggestionato i forestieri. Però poi non dobbiamo dimenticare che in realtà quella che noi chiamiamo musica di tradizione era una specie di colonna sonora permanente, diciamo, del mondo contadino delle campagne del sud, non solo del sud. Quindi, diciamo, ci sono tutti i repertori che accompagnavano le varie situazioni che si creavano durante il lavoro, per esempio, spesso eseguiti con più voci, tipo i canti dei neri del sud degli Stati Uniti. Quindi, insomma, sono corpus molto differenziati, molto molto interessanti. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Tre barconi carichi di immigrati sono colati a picco fra la Libia e la Sicilia. 350 persone sono state soccorse da un rimorchiatore italiano, ma i dispersi sarebbero 300. Scaduto l'ultimatum per i tre rapiti dai terroristi islamici nelle Filippine, che minacciano di decapitare uno degli ostaggi. Fra loro, lo ricordiamo, c'è l'italiano Eugenio Vagni. L'inflazione a marzo scende a livelli che non si vedevano da 40 anni, all'1,2% su base annua. Crolla il prezzo dei biglietti aerei, meno 12%. In un mese. Intanto Trenitalia lancia l'alta velocità low cost. Produzione industriale in calo del 20% in marzo, dice Confindustria. Leggera crescita delle vendite al dettaglio a gennaio. A Grenoble, in Francia, gli operai hanno sequestrato quattro dirigenti di Caterpillar che avevano annunciato licenziamenti. In Afghanistan approvata una legge che legittima di fatto lo stupro delle mogli. Per le donne è vietato uscire di casa e lavorare. Tra semplificazione e stretta sui controlli, ci sono nuove linee guida da parte dell'INPS sui collaboratori domestici. Fra una decina di giorni, precisamente da venerdì 10 aprile, scade il termine per versare i contributi a colf e badanti del primo trimestre del 2009. Ci sono alcune importanti novità. A partire da una comunicazione che arriva in questi giorni nelle case dei datori di lavoro e che li aiuta nel calcolare i contributi, ma passando anche da una nuova serie di controlli. Buongiorno ad Antonio Mastrapasqua, che è il presidente dell'INPS. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, partiamo dalla semplificazione. Che cosa si troveranno, che cosa c'è scritto, insomma, in questa lettera che state inviando agli italiani, appunto, che usufruiscono dei lavori di colf e badanti? Noi inviamo a tutti quanti i datori di lavoro che risultano nelle nostre banche dati, circa 700.000 datori di lavoro, inviamo il nome della persona che dovrebbe collaborare con loro, il numero delle ore, quindi la modalità di lavoro che loro hanno deciso di fargli svolgere, e i bollettini prestampati. Quindi già da questo qui il datore di lavoro potrà o pagare o chiamarci e dire che ci stanno degli errori, oppure comunicarci che non gli era arrivato, e quindi vuol dire che il loro lavoratore non è stato iscritto. Presidente, la stretta sui controlli come avviene? Dunque, noi abbiamo questa banca dati, innanzitutto dovremo verificare se le risposte che ci pervengono coincidono con la nostra banca dati, abbiamo poi le banca dati del Ministero degli Interni e tutte le altre banca dati che ci fanno sapere dove sono e dove sono iscritte le persone che entrano in Italia e comunque avevano dichiarato di lavorare per un datore di lavoro. A questo punto, ed è anche la trasparenza e semplificazione, noi abbiamo agevolato il lavoro. Prima per iscrivere una domestica bisognava andare al centro per l'impiego, compilare moduli, adesso basta una telefonata, quindi è veramente semplice iscrivere una domestica, però in egual misura noi abbiamo deciso di fare controlli mirati e attenti, perché credo che sia doveroso non occupare persone in nero, soprattutto persone deboli che spesso sotto pressioni dei datori di lavoro vengono sottopagate e non pagati i contributi. Però mi scusi, sono solo controlli a livello, diciamo, incrociati di banche dati, non potete fare dei controlli effettivi, insomma, per sapere se una persona sta lavorando o meno in nero? Diciamo, l'INPS può fare qualsiasi tipo di controllo. Per adesso ci vogliamo limitare a quello sulle banche dati e gli incroci dei dati. Ciò non toglie che dove vediamo delle anomalie sicuramente i nostri ispettori potranno recarsi per fare dei controlli più mirati. Questo vuol dire in sostanza, Presidente, che potrete fare controlli solamente su quelli che potremmo definire gli evasori totali del settore, cioè ossia le persone che lavorano completamente in nero. Se una persona è impiegata una colf, le paga contributi per 4 ore e questa lavora per 8 ore al giorno, sarà ben più difficile controllare. Ma guardi, qui ci si affida alla coscienza delle persone, non è solamente sulle colf, ma su tantissimi rapporti di lavoro si dichiarano meno ore per poi farne lavorare di più. Io credo che è quello che stiamo tentando di fare, è veramente far emergere una coscienza del paese nel momento in cui si regolarizzano e si fanno emergere i lavori e tutti i tipi di lavoratori. Per il resto è chiaro che non può esserci uno stato di polizia che manda gli ispettori dell'INPS, ce ne vorrebbero milioni in tutte le case a controllare, però io mi appello anche alla coscienza delle persone, che hanno delle persone deboli, che guadagnano pochissimo e che la mancanza dei contributi e dell'assicurazione farà stare male nel momento della vecchiaia. Grazie dunque ad Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, per essere stato con noi e per averci aiutato a capire. Torneremo a parlarne, Alessandra, no? Sì, torneremo a parlare di questo argomento anche domani mattina in Soldi e Dintorni con Deborah Rosciani alle 8:15 per avere proprio i dettagli pratici su come compilare appunto questi moduli. E ora andiamo in Francia. Come sentivate dai titoli, alcuni operai hanno sequestrato i dirigenti di una fabbrica che aveva annunciato licenziamenti. Non è la prima volta, un episodio simile ve lo avevamo raccontato la settimana scorsa. Allora ci colleghiamo con Parigi, con il nostro Igor Fiatti. Igor. Sì, buongiorno a voi, buongiorno da Parigi. Dunque, alcuni dipendenti del gruppo Caterpillar hanno sequestrato 4 dirigenti nell'ufficio della direzione di Grenoble e questo è un sequestro che arriva pochi giorni dopo l'annuncio di un taglio drastico degli occupati. A casa dovrebbero infatti restare oltre 700 persone e stando alle informazioni diffuse dai sindacati, in mano agli operai sono finiti il direttore e altri 3 manager. C'è però da dire che questo sequestro non è affatto una novità per le aziende francesi che fanno i conti con la crisi. La scorsa settimana, ad esempio, al centro delle cronache era finito un episodio simile che si era concluso con un lieto fine. Dopo una lunga trattativa, si era difatti arrivati alla liberazione di un manager sequestrato per 2 giorni da operai in sciopero. L'episodio era avvenuto quella volta a Pithiviers, nella filiale dell'azienda farmaceutica americana 3M. E a sbloccare il tutto ci aveva pensato la mediazione delle autorità locali sul piano di rinnovamento. E con questo per ora è tutto, linea allo studio. Grazie Igor Fiatti, noi ora veniamo al piano caso, ossia il progetto del governo che prevede la possibilità di ampliare il volume di alcuni edifici. La settimana scorsa era arrivato lo stop delle regioni che avanzavano obiezioni sia di merito che di metodo, nel senso che non gradivano lo strumento immediato del decreto legge. E questa mattina proprio loro, i rappresentanti delle regioni, sono nuovamente riuniti a Roma. Che aria tira? Lo chiediamo al nostro Andrea Viali. Andrea. Dunque sì Simone, allora questa riunione sì è appena conclusa e quello che possiamo dire è che il confronto tra governo ed enti locali ripartirà nel pomeriggio. Questa mattina le regioni hanno fatto sapere poco fa, in questo incontro che si è appena concluso, hanno fatto sapere che all'incontro presenteranno un documento sul quale c'è stato un accordo, diciamo, all'unanimità fra i vari governatori, che chiedono in sostanza al governo di procedere per decreto per approvare una serie di misure che però sono quelle di competenza strettamente statale, che riguardano in pratica la semplificazione delle norme con le quali vengono oggi concessi i permessi edilizi. Le misure del piano casa vero e proprio andrebbero invece in un altro provvedimento che le regioni si impegnano a recepire nei loro ordinamenti entro 90 giorni. Ecco, tra queste misure ci sono, come dicevate, anche quelle che consentono l'ampliamento del 20% delle villette monofamiliari, ma a quanto si apprende questa misura potrebbe riguardare anche le palazzine più piccole fino a 1000 metri cubi che si trovano anche nei centri urbani, questo ha detto il Presidente delle Regioni Errani, ma non nei centri storici delle città. In sostanza dunque queste sono le richieste delle regioni che vorrebbero anche poi però più risorse da destinare all'edilizia agevolata. Questo testo, il documento sul quale le regioni hanno trovato un accordo, sarà presentato nel pomeriggio e in caso di accordo potrebbe anche essere approvato già domani mattina dal Consiglio dei Ministri, che si riunirebbe proprio per questo in via straordinaria. Per il momento dalla conferenza delle regioni è tutto. Grazie Andrea Viali. E anche questo provvedimento, quando andrà in porto, farà parte delle strategie dei governi per affrontare la crisi. E questo ci porta a parlare di Barack Obama e del settore auto, Alessandra. Eh sì, perché il presidente americano ieri ha detto che né General Motors né Chrysler hanno presentato cambiamenti decisivi tali da giustificare ulteriori aiuti governativi. Lo ricordiamo, le case automobilistiche americane avevano già ricevuto complessivamente 17 miliardi di dollari dalla precedente amministrazione. In particolare per Chrysler c'è una condizione, cioè se farà l'accordo con Fiat entro 30 giorni riceverà aiuti fino a 6 miliardi. Fiat diventa dunque il soccorso per la casa automobilistica americana. E tra l'altro ieri l'amministratore delegato di Fiat, Marchionne, aveva ringraziato pubblicamente Obama per questo riconoscimento. Sì, tra l'altro ieri è stato annunciato l'accordo, che fino a ieri era sostanzialmente solo un memorandum of understanding tra le due aziende. Di questo la Fiat sta enormemente beneficiando in borsa, perché guadagna in questo momento l'11,15%. Siamo andati a sentire però il fronte sindacale. Vogliamo capire che cosa ne pensano i sindacati di questo accordo tra Fiat e Chrysler, i sindacati italiani naturalmente, e che impatto questo accordo potrà avere sugli stabilimenti italiani, se ne avrà. Sentiamo Enzo Masini, coordinatore nazionale FIOM CGL per tutto il gruppo Fiat. Noi riteniamo che ci sia una ricaduta in positivo sull'immagine della Fiat. Innanzitutto perché questo premia quanto fatto sul piano dei motori a basso impatto ambientale da parte del gruppo, ma che da qui a capire che cosa potrà in concreto avere di ripercussione sugli stabilimenti italiani ci sarà molto da aspettare i concreti sviluppi. Chiaramente non sarà una produzione quella prevista per il mercato americano che possa essere fatta negli stabilimenti italiani. Insomma, qui non stiamo parlando né di Ferrari né di Maserati, stiamo parlando di una produzione di 500, di Alfa Mito e comunque di vetture che hanno bisogno di essere prodotte in loco. E quando si dice prodotte in loco, molto probabilmente creando anche una rete di componentisti, almeno della componentistica di primo livello, che comunque negli stabilimenti dell'auto è fatta a ridosso degli stabilimenti. Potrà esserci una ricaduta sui conti economici molto probabilmente della Fiat in positivo, perché le piattaforme e anche la produzione di sviluppi dei motori e dei modelli potrà essere spalmata, distribuita su una produzione più ampia di quella che si fa unicamente negli stabilimenti europei. Giulia Crivelli, della Fiat come opzione di salvezza per la Chrysler si parla sui giornali stranieri oggi? Sì, dappertutto direi, perché comunque effettivamente è ormai uno scenario che coinvolge anche il fronte europeo, con Marchionne che vola dall'altra parte dell'oceano per siglare questo accordo e Obama che in un impeto così di orgoglio dice no, adesso un momento e rivediamo un po' tutti i piani, tant'è che per esempio Financial Times dice forse finalmente qualcuno alla Casa Bianca ha consegnato un manuale del Negotiations for Dummies, quei manuali di per principianti, negoziazioni per principianti. L'accusa un po' di Financial Times è che fino adesso era stato dato fin troppo senza chiedere niente in cambio. In realtà sempre Financial Times prende la questione anche da, appunto, essendo un quotidiano europeo, da una prospettiva più europea, e spiega che la Fiat potrebbe addirittura essere a questo punto al centro di un'alleanza internazionale a quattro. Da una parte naturalmente Chrysler, Marchionne è volato negli Stati Uniti proprio per definire questo accordo, e poi ci sarebbe Tata, la famosa casa automobilistica indiana che produce anche questa vettura, tra le tante, questa piccola vettura low cost, e poi Peugeot, che sappiamo i suoi problemi, due giorni fa il numero uno è stato cacciato, e quindi si potrebbe, insomma, potrebbe cambiare completamente lo scenario. Dalla crisi, non solo automobilistica, potrebbero uscire un nuovo scacchiere automobilistico mondiale. Giulia, abbiamo parlato poco fa dei rapporti non proprio facili tra i francesi e i manager delle aziende. Nella fattispecie abbiamo parlato del sequestro degli operai, dei quattro dirigenti della Caterpillar. E però se ne parla anche per la questione stock option, no? Sì, il presidente Sarkozy è stato criticato aspramente per non essere intervenuto magari tanto prontamente quanto altri governi sulla questione dei maxi bonus, delle maxi retribuzioni anche a manager che firmano bilanci in perdita. Adesso il premier Fillon sembra un po' l'incaricato ad agire in questo caso per calmare un po' gli animi esasperati dei francesi, e c'è un piano anti stock option, ne parla Libera, ma in modo molto critico, perché è un po' come se dicesse come chiudere appunto la stalla dopo che sono scappati i buoi, perché comunque le stock option già da mesi sono un ricordo, quindi mettere adesso un tetto a quelle è quasi inutile, perché tanto le stock option non le prende più nessuno, comunque non riesce più a incassarle nessuno, quindi insomma è una così una per ora una piccola misura che probabilmente insufficiente, a cui probabilmente faranno seguito altre cose. Giulia, chi è il Fabio di cui si parla sull'Independent? Mister Fabio e Fabio Capello, è fantastica questa cosa, perché pare che Fabio Capello non sappia neanche tanto bene l'inglese, però l'Independent lo descrive testuale come un enigmatico intellettuale, e nel titolo l'Independent tra l'altro non è un giornale. Scusa Giulia, enigmatico forse perché appunto non parlando bene l'inglese gli inglesi non riescono a comprenderlo. E quindi è una tattica questa geniale di non parlare troppo, così può essere che ti può essere attribuito qualsiasi tipo di pensiero. E l'Independent, che è un giornale né scandalistico né sportivo ma anzi molto serio, lo descrive come l'uomo della rinascita del football inglese. Naturalmente l'Inghilterra guarda già la Coppa del Mondo come facciamo tutti, e Capello è il CT, lo sappiamo, Fabio Capello, e gli inglesi ripongono moltissime speranze nell'ex allenatore del Milan. Sono le 13:47 minuti, bentornati alla GR Extra Large. Prima di tutto due notizie arrivate da poco in redazione, che arrivano dalla Conferenza Episcopale Italiana. Innanzitutto c'è una risposta al presidente della Camera Gianfranco Fini, che sul tema del testamento biologico aveva fatto riferimento aveva parlato di stato etico. La CEI dice che non ha simpatia per nessuno stato etico, che esiste dove c'è costrizione, e non mi sembra questo il caso. Le parole sono del segretario generale della CEI, Monsignor Mariano Crociata. Sempre la CEI ha annunciato un fondo di garanzia da 30 milioni di euro in grado di generare prestiti bancari per 300 milioni da destinare alle famiglie in difficoltà a causa della crisi, grazie ad un accordo con l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Ma a proposito di temi etici, Alessandra? Eh sì, a proposito di temi etici, c'è una notizia che riguarda la Corte Costituzionale, che da oggi è riunita per decidere se alcuni punti della legge 40, ossia quella sulla procreazione assistita, sono anticostituzionali o meno. Deve decidere in sostanza sul ricorso presentato da alcune associazioni che sono appunto in favore della procreazione assistita. Ebbene, dopo 2 ore e mezza di battaglia davanti ai giudici costituzionali, la Corte ha preso una prima decisione, cioè quella di non ammettere in giudizio le diverse associazioni che si erano costituite come parti. E andiamo all'estero adesso, ci spostiamo in Afghanistan, perché il governo ha votato una legge ancora non pubblicata e quindi ancora non operativa, che rappresenta un duro colpo ai diritti delle donne. Di fatto legalizza lo stupro del marito nei confronti della moglie. È importante che il mondo guardi all'Afghanistan, ha detto il presidente Karzai al suo arrivo all'Aia. Ma se oggi il mondo guarda al suo paese, lo fa con un certo sgomento dopo che le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme su un testo di legge approvato dal governo di Kabul che di fatto affossa i diritti delle donne, facendole ripiombare nella situazione di quando al potere c'erano i talebani. La legge legalizza lo stupro del marito nei confronti della moglie, obbliga le donne a concedersi al marito senza fare resistenza, vieta loro di uscire di casa, cercare lavoro o anche andare dal medico senza il permesso del consorte. Insomma, l'uomo è marito padrone della propria moglie, questo in un paese dove i matrimoni spesso coinvolgono spose e bambine. Simona Lanzoni, responsabile dei progetti per la Fondazione Pangea in Afghanistan dal 2003 al 2005. È stata promossa moltissimo dai leader religiosi. Tra l'altro questa è una legge perché è da oltre un anno che è in Parlamento, è stata palleggiata perché avevo già incontrato durante il 2008 diverse volte delle donne afghane che ci avevano detto ci sono delle leggi in Parlamento assurde. Una virata verso il fondamentalismo islamico potentissimo in Afghanistan che riflette il tentativo del debole governo Karzai di ampliare il consenso in vista delle presidenziali di agosto. Io ho visto tantissime donne battersi per raggiungere i loro diritti, ho visto donne partecipare alle diverse loya jirga che ci sono state, presentarsi come parlamentari, donne che invece, donne semplici che sono andate a votare malgrado sapessero che potevano rischiare di essere seguite fino a casa. Certo che con una legge di questo genere mi chiedo veramente adesso come ci si può veramente rapportare a loro, soprattutto perché una delle grosse cose che porta l'intervento straniero deve essere proprio la questione del diritto. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo del vertice della Lega Araba che ieri ha avuto un protagonista tutt'altro che inatteso. Un nuovo show del leader libico Gheddafi domina i titoli della stampa araba di oggi. Ieri, durante il vertice dei capi di Stato arabi di Doha, trasmesso in diretta da tutte le TV arabe, il colonnello, interrompendo l'oratore di turno, si è rivolto al sovrano saudita Abdullah, coprendolo prima di insulti, definendolo bugiardo destinato alla tomba. Ma poi, siccome lui, parole sue, è il re dei re dell'Africa, il capo dei capi arabi e la guida di tutti i musulmani, ha considerato chiusa la faccenda e ha invitato il re a fare pace. Incurante dell'effetto provocato dalle sue parole, il colonnello ha poi guadagnato l'uscita della grande sala e è andato in giro per la città. Inseguito dal premier del paese ospitante, che lo ha trovato in un museo, viene riportato in albergo per chiarirsi con il re saudita e i giornali di oggi parlano di storica riconciliazione. Adifa Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, un rapido riepilogo delle notizie di giornata. Tre barconi carichi di immigrati colati a picco fra la Libia e la Sicilia, 300 dispersi. Scaduto l'ultimatum per i tre rapiti dei terroristi islamici nelle Filippine che minacciano di decapitare uno degli ostaggi, fra loro, lo ricordiamo, c'è un italiano. L'inflazione a marzo scende a livelli che non si vedevano da 40 anni, all'1,2% su base annua. Sempre in marzo, produzione industriale in calo del 20%, secondo Confindustria. La conferenza episcopale contro Fini sul testamento biologico, non c'è nessuno stato etico. In Afghanistan ha approvato una legge che legittima lo stupro delle mogli, per le donne è vietato uscire di casa e lavorare. Ed è tutto per questa edizione della GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Il prossimo GR alle 15, Extra Large torna domani alle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.